Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Torniamo a parlare questa sera di Europa, concludendo così il ciclo di puntate che abbiamo dedicato alle celebrazioni dei 60 anni dalla firma dei trattati istitutivi della Comunità Economica Europea. Dopo aver ascoltato le testimonianze dirette dei protagonisti che concorsero alla stesura dei trattati, ora affrontiamo il nodo fondamentale delle prospettive presenti e future dell'Unione Europea. In poche parole, ci soffermiamo su quel che occorrerebbe fare per rispondere alla grave crisi in cui si dibatte l'Europa da circa un decennio. Lo facciamo in compagnia del professor Sergio Fabbrini, direttore della School of Government della LUIS e docente di Scienza Politica e Relazioni Internazionali presso lo stesso Ateneo. Buonasera professore, bentornato. Buonasera, grazie per l'invito. Il professor Fabbrini ha appena pubblicato per La Terza il libro dal titolo Sdoppiamento, una prospettiva nuova per l'Europa. Ascoltiamo questo passaggio tratto dalla prefazione. La crisi dell'euro, l'arrivo in Europa di milioni di rifugiati e migranti, gli attacchi terroristici nel cuore delle città europee, infine la Brexit, i crescenti populismi e nazionalismi, le eurofobie, l'impatto della presidenza Trump sugli equilibri geopolitici alla base del progetto di integrazione. A partire dal 2008 l'Unione ha affrontato sfide senza precedenti, con un assetto legale e istituzionale che alla prova si è rivelato drammaticamente inadeguato. Se vogliamo dare nuova forza all'Unione, l'idea di una misura che vada bene per tutti va messa nel cestino. È necessario separare gli stati che hanno una ragione strutturale per aggregarsi politicamente, come è il caso dei paesi dell'Europa continentale e occidentale, e gli stati che hanno invece un esclusivo interesse economico per il processo di integrazione, le isole e penisole del nord, gli stati dell'est. Il primo gruppo dovrà procedere verso una vera e propria unione federale, con una base politica e costituzionale, e perseguire l'obiettivo di un'unione sempre più stretta. Il secondo gruppo potrà invece basarsi su un trattato interstatale puramente funzionale. Due Europe, quindi, collegate nel mercato unico. Solo così sarà possibile portare l'Unione Europea fuori dalla sua crisi esistenziale. In sostanza, professor Fabbrini, ci siamo illusi che l'allargamento dei confini dell'Europa e il mercato unico fossero di per sé sufficienti ad assorbire gli squilibri preesistenti. Ora l'Europa si trova a un bivio. La sua tesi è che comunque occorra procedere in direzione di un'unione politica, anche se più ridotta. In sostanza, è l'Europa a più velocità? Diciamo che è l'Europa a più velocità, se intendiamo l'Europa a più velocità come un'Europa ha più finalità. Il punto di partenza è che l'allargamento, le varie ondate di allargamento rappresentano un grande successo per l'Europa, per l'Unione Europea. Abbiamo in qualche modo raccolto all'interno di un'unica organizzazione legale e di un'unica cultura politica 28 paesi, oggi rimasti 27. Tuttavia questo allargamento ha generato anche una eterogeneità interna all'Unione Europea, mostrato come dentro l'Unione Europea ci fossero paesi che sono entrati nel processo di integrazione sulla base di ragioni diverse. La crisi ha fatto saltare questi equilibri, ha mostrato che l'Unione Europea non aveva più un'anima, non aveva più un cuore politico, non aveva più una testa politica. Ora, di fronte alla paralisi in cui si è trovata l'Unione Europea, le spinte per ritornare a casa sono rivelate formidabili. Brexit è, diciamo, la punta dell'iceberg di un processo che è molto più largo, diffuso, in particolare in quei paesi che sono entrati dentro l'integrazione europea per ragioni strumentali, per ragioni economiche, per sicurezza geomilitare. Certo. Pensiamo a quello che succede oggi in Ungheria, in cui addirittura uno Stato membro dell'Unione Europea chiude una università perché questa università è indipendente dal governo, oppure pensiamo a cosa sta succedendo in Polonia, nella stessa Repubblica Ceca. Insomma, siamo di fronte veramente, e questa paralisi ha stimolato spinte forze nazionalistiche, siamo proprio di fronte alla risorgenza del sovranismo. Ecco, ma in un capitolo specifico del libro, l'Unione Europea da Roma a Lisbona, in particolare si affronta un excursus storico sui primi decenni dell'integrazione e poi si arriva gradatamente ai giorni nostri. Allora, se torniamo indietro, professor Fabbrini, quali possono essere le ragioni in base alle quali poi non è stata costruita quella gamba fondamentale dell'unione politica? In sostanza la comunità nasce sotto la forma dell'unione economico-commerciale, ma il resto è ancora di là da venire. Sì, ovviamente la sconfitta della comunità europea della difesa nel 1954, quel progetto fu bocciato dall'Assemblea nazionale francese, portò gli europeisti a pensare che l'Europa si poteva costruire attraverso il mercato, attraverso la collaborazione transnazionale su tematiche economiche. È stata una grande idea. L'Europa oggi, il mercato unico europeo, è un elemento di forza, ha liberato l'Europa dalle rivalità tra gli stati, ha dato all'Europa le condizioni di uno sviluppo economico che si è verificato negli ultimi 60 anni senza precedenti. Tuttavia, quell'idea di arrivare all'unità politica attraverso l'economia non funziona. Non funziona perché, come dicevo prima, questo passaggio continuo di competenze dal livello nazionale a livello di Bruxelles, passaggio non spiegato, non motivato, ha generato delle reazioni formidabili. Quindi oggi quello che io vorrei fare, cerco di fare con quel libro, è dire agli europeisti, a coloro che credono all'Europa integrata come condizione di pace, di democrazia e di sviluppo economico, di dire qual è la loro visione d'Europa. Non si può più costruire l'Europa di nascosto. L'Europa politica deve essere affrontata, come dire, direttamente, nelle strade, nei dibattiti pubblici, nelle campagne elettorali. E oggi chi vuole andare in quella direzione, nella direzione politica, deve affrontare i sovranisti, i nazionalisti, a faccia aperta, come sta avvenendo in parte in Francia, dove Macron si distingue da Le Pen perché assume una posizione chiaramente europeista. Ed è solo così si riesce a pensare ad un'Europa politica che nasce da una volontà da parte dei leader e da parte dei cittadini. E a proposito di sovranismi, professor Fabbrini, quest'anno sappiamo che tra breve ci saranno le elezioni presidenziali in Francia e poi in settembre ci saranno le elezioni politiche in Germania. Allora, due appuntamenti fondamentali per il futuro dell'Unione Europea. Quali scenari possono aprirsi? Ma intanto la Francia è un primo test formidabile, perché la Francia è un paese fondamentale per l'integrazione europea, ma il suo indebolimento e soprattutto le sue ambiguità interne sono state una causa permanente negli ultimi vent'anni delle difficoltà dell'integrazione europea. Il progetto di Costituzione europea è stato bocciato prima di tutto in un referendum francese. Sono le incertezze francesi che hanno lasciato per molti aspetti la Germania da sola. La Francia non è stata in grado di fare le riforme necessarie. È un paese che ha perso quella carica e quella capacità di guida. Oggi nelle elezioni francesi si gioca questo, si gioca il ruolo europeo della Francia. Poi a settembre ci saranno le elezioni in Germania, e la Germania evidentemente la situazione è molto più stabile rispetto a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. La vicenda della Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto, fa sì che in Germania posizioni come Le Pen sarebbero impensabili. Tuttavia la Germania si è, come dire, accomodata, si è adagiata sulla gestione quotidiana dell'Europa, dell'Eurozona in particolare, senza avere più una carica strategica. L'arrivo di Martin Schulz alla guida del Partito Socialdemocratico ha obbligato tutti gli attori ad aprire una discussione molto più forte, più alta sul futuro dell'Europa. E poi ci sarà l'Italia, ed è qui il punto debole, certo, perché l'Italia dovrebbe giocare, come ha sempre giocato già da Roma nel 1957, questo ruolo mediatore tra le due grandi paesi europei, quello che crea gli accordi accordi, quello che favorisce i compromessi, ma l'Italia che esce da febbraio e marzo, delle elezioni di febbraio e marzo, che Italia sarà? Certo. Sarà un'Italia forte, debole, io penso un'Italia molto debole. Infatti nelle conclusioni l'Italia è l'Europa differenziata del libero, si dice, essendo uscita dalla seconda guerra mondiale come un paese sconfitto militarmente, insicuro politicamente, l'Italia si è inevitabilmente affidata al processo di integrazione, quindi per noi è vitale, professor Fabbrini. Assolutamente, ma soprattutto dobbiamo imparare a pensare che l'integrazione europea è un processo in cui gli Stati assolvono un ruolo importante, non sono gli unici, ma l'integrazione europea è il risultato di una collaborazione, di una iniziativa da parte degli Stati, oltre che delle istituzioni europee come la Commissione, il Parlamento europeo, ovviamente la Corte europea di giustizia. L'Italia nella sua debolezza ha affidato i suoi interessi nazionali alla Commissione perché non è sicura di portare avanti un progetto dentro l'Europa. Ora, dobbiamo liberarci da questo, dobbiamo diventare un paese adulto, un paese maturo, dobbiamo darci delle istituzioni che possono funzionare e usare la nostra storia, la nostra identità, soprattutto quelle radici del manifesto di Ventotene del 1941, per avanzare un progetto di integrazione politica che risponde esattamente ai nostri interessi nazionali. Bene, è molto importante e anche bello questo riferimento all'identità europea, professore. La ringraziamo molto. Ricordiamo Sergio Fabbrini, autore di questo interessante libro, Sdoppiamento, una prospettiva nuova per l'Europa, pubblicato dalla Terza. Buonasera, professore, grazie ancora. Grazie a voi per l'invito, grazie.